Radio 24 Reportage. Vaccini, il decreto della discordia, di Alessandra Schepisi. Libertà! Libertà! Libertà! Libertà! Non ci sono contrari e favorevoli, perché qua si parla della libertà! Della libertà di ognuno! Libertà anche sulla nostra pelle! Dobbiamo decidere noi anche sulle nostre pelli! Laddove esiste un rischio, e il rischio è documentato, che ne dicano quelli che negano l'evidenza, là non può esistere un obbligo. Una cosa è certa sui vaccini, si cambia, salgono da 4 a 12 le immunizzazioni obbligatorie e gratuite, senza le quali da 0 a 6 anni sarà vietato l'ingresso a scuola e da 6 ai 16 saranno applicate pesanti sanzioni pecuniarie, fino alla possibile sospensione della potestà genitoriale. Novità che partono già dal prossimo anno scolastico, ma che hanno suscitato, e ancora lo fanno, un mare di polemiche, non solo da parte di chi è assolutamente contrario ai vaccini, ma anche da parte di chi, pur favorevole, ne contesta l'obbligatorietà. Molti genitori hanno già presentato ricorso, 130 famiglie altoatesine chiederanno asilo politico in Austria, pur di sottrarsi all'obbligo. I più estremi chiedono di non sottoporre i propri figli ad alcuna vaccinazione, altri invece piani personalizzati, come spiega Giovanni Bazzoni del Comitato Libera Scelta Vaccinale. Questi genitori non sono contro i vaccini perché molti di loro hanno vaccinato i figli, altri li hanno vaccinato in parte, altri hanno scelto un calendario personalizzato per le vaccinazioni. Il punto è se di fronte a queste scelte che hanno fatto i genitori sia giusto e legittimo escludere i bambini da scuola. La questione, dicono ancora altri, è la mancanza di un monitoraggio chiaro sulle reazioni avverse, di una farmacovigilanza, di esami prevaccinali, timori e preoccupazioni inesistenti per la comunità scientifica. E allora facciamoci spiegare tutto dall'epidemiologo dell'Istituto Superiore della Sanità, Giovanni Rezza. Non c'è nessun esame, non c'è alcun esame che possa far sì che si decida o meno di vaccinare un bambino. Per quanto riguarda la informazione sulle reazioni avverse, il monitoraggio, la vaccinovigilanza, certamente si può fare sempre di più e meglio. L'AIFA appena rilasciato dei dati, questi dati sono estremamente rassicuranti, le reazioni gravi sono estremamente rare, tant'è vero che non viene riportato neanche un decesso associato alle vaccinazioni in Italia nei dati AIFA. Quelli che vengono riportati come eventi avversi sono eventi che fanno seguito alla vaccinazione, che non sono causati dalla vaccinazione stessa. Però, professoressa, ci sono genitori che pur non contrari ai vaccini chiedono di avere la libertà di scelta, come dire, è una questione di principio, perché lo Stato deve imporci ad esempio tutte le 12 vaccinazioni e non lasciarci ad esempio liberi di sottoporre i nostri figli magari solo a 10 o 11 di queste vaccinazioni? La libertà di scelta su certe materie potrebbe essere opinabile. Peccato che ci siano molti genitori che non si convincono che vaccinare i propri figli contro alcune malattie infettive è importante. Sembra quasi che mettano in dubbio l'efficacia dei vaccini, che ricordiamolo, sono serviti ad eradicare malattie come il vaiolo, hanno praticamente quasi eliminato del tutto la poliomielite dalla faccia della terra, tengono sotto controllo molte altre malattie infettive pericolose, per cui appellarsi alla libertà di scelta è già probabilmente un errore. Seconda cosa, quando si parla di ambito scolastico bisogna pensare che in un ambiente scolastico ci sono bambini sani ma anche bambini che purtroppo per esempio sono immunodepressi, quindi non possono vaccinarsi. In questo caso bisogna piuttosto appellarsi al senso civico, cioè bisogna evidentemente far sì che non contraggano l'infezione. L'unico modo per non contrarre l'infezione è quello di vaccinare tutti gli altri, tutti quelli che gli stanno intorno. Questo è il messaggio, ma questo decreto con questi obblighi così stringenti, queste sanzioni così dure, fino alla sospensione ad esempio della potestà genitoriale, era davvero così necessario? Cioè c'era una situazione di allarme tale per cui bisognava arrivare alla coercizione? Non è una situazione di emergenza, nel senso che non è una situazione allarmante. Abbiamo in corso un'epidemia di morbillo, l'OMS stesso, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci ha ricordato quest'anno: ma voi avreste dovuto eliminare il morbillo già nel 2015, ed è vero che siamo la maglia nera, abbiamo la maglia nera dopo la Romania per numero di casi in Europa. Il morbillo non è una malattia così banale, quindi anche se non è una situazione allarmante, è una situazione che comunque sia impone la necessità di alcuni provvedimenti. Ma a contestare il decreto sono anche molti dirigenti scolastici, preoccupati per le nuove incombenze che ne deriveranno. Le scuole infatti già da settembre dovranno controllare i documenti di tutti i ragazzi, segnalare eventuali violazioni alle ASL, organizzare le classi in modo da prevedere una distribuzione omogenea di bambini non vaccinati perché esonerati. È prevista in realtà una fase transitoria per il primo anno di applicazione del decreto, ma resta il fatto che ci sarà lavoro in più per le scuole, lamentano i presidi già scesi in piazza a protestare. Noi non siamo autorità sanitaria e intanto meno autorità di polizia. Non può il Ministero della Sanità riaggiungerci un'altra responsabilità in termini di controllo, quando la sanità pubblica ha benissimo tutti i dirigenti medici per poterlo fare. E questo stato di controllori noi crediamo che non tocca a noi. Danno a noi una nuova responsabilità amministrativa con le segreterie che non ce la fanno più. Non possiamo fare anche il servizio del Ministero della Sanità. Questa è soltanto l'ultima delle vessazioni che la burocrazia disorganizzata di un ministero che non sta più in piedi riversa sulle scuole. Le scuole non possono fare tutto, è ora di organizzare meglio le cose. Ma il Ministero della Salute dal canto suo promette una campagna di sensibilizzazione dal 1 luglio, ore di formazione per i docenti, una collaborazione molto stretta con le ASL. La fase transitoria in ogni caso aiuterà. Per questo primo anno infatti alle famiglie basterà presentare un'autocertificazione in attesa ad esempio di trovare i libretti vaccinali o la prenotazione alla ASL in attesa che questa provveda poi ad eseguire la vaccinazione. Tutto ciò è confermato dallo stesso ministro della Salute Lorenzin. Noi abbiamo previsto una fase transitoria che è tutta quella del 2017, per cui fino al 10 di settembre c'è tutto il tempo per chi ha per esempio smarrito le certificazioni, non si ricorda dove ha messo un foglio, una ricetta, di procedere diciamo a questi adempimenti burocratici, così come di fare richiesta di mettersi in regola con le vaccinazioni. Poi dal 10 di settembre fino al 10 di marzo ci sarà tutto il tempo per chi non ha fatto vaccinazioni di cominciare il percorso, oppure per chi le ha fatte ma deve ancora produrre dei documenti di poterle produrre. La richiesta di una fase transitoria era stata formulata infatti dalle stesse regioni, come spiega Antonio Saitta, presidente della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni. Con questa diluizione è chiaro che tutte le preoccupazioni che avevamo, non soltanto per noi dal punto di vista organizzativo, ma soprattutto per i cittadini, in qualche maniera non dovrebbero esserci. Dopodiché è chiaro che passare a un sistema diverso rispetto al passato comporta per forza di cose una nuova organizzazione e probabilmente anche del personale in più. Da parte delle regioni comunque partirà una campagna di informazione alle famiglie su quali vaccinazioni, quali scadenze. Ci concentreremo sull'applicazione per evitare una via crucis ai cittadini, perché la materia è complessa anche, no? Quali sono le vaccinazioni, quali sono obbligatorie, quello che deve fare il primo anno, quello che deve fare l'anno successivo. È bene che questo lavoro venga, come dire, preso in mano direttamente da chi ha le informazioni, in questo caso del segretario locale, che chiameranno non tutti assieme, ma con il necessario tempo che consente appunto di evitare problemi alle famiglie. Quindi concretamente come e quando partirà questa campagna di informazione? Finita la fase delle iscrizioni, cioè a quelli a settembre, si inizierà la campagna di informazione, ma puntuale, personalizzata in sostanza. E dice: tuo figlio ha fatto queste vaccinazioni, ne deve fare ancora queste, il giorno tal dei tardi sarà chiamato per fare, oppure sarà presto chiamato per fare queste altre vaccinazioni. Quindi è possibile che arrivano delle lettere, come arrivano per esempio per anche altri screening? È la stessa identica cosa, perché questo aiuta, consente anche di poter dare informazioni più precise. Ma nonostante le rassicurazioni di molti, nonostante la fase transitoria, il tema vaccini continua ad essere terreno di scontro anche politico. Il Movimento 5 Stelle annuncia battaglia, il ministro Lorenzin querela contro il deputato Sibilia, che ha definito follia l'obbligatorietà. Mentre alcune regioni sono contrarie, capofila il Veneto, che ha impugnato il provvedimento davanti alla Consulta. Ci facciamo spiegare perché dal governatore Luca Zaia. Non sono contro il vaccino, ma sono per porre una questione. La questione è che non è più l'era degli obblighi, ma l'era dei dialoghi. Io penso che il dialogo sia fondamentale. Sa qual è la vera preoccupazione? Che questa azione, che è un'azione coercitiva importante, che ci parla di giudice, che convoca i genitori e poi le multe, tutte queste robe, incentiveranno l'abbandono ai vaccini. Il nuovo decreto, licenziato il 19 maggio dal Consiglio dei Ministri, entrato in vigore l'8 giugno, è approdato questa settimana in Commissione Sanità del Senato. Da martedì partirà l'esame dell'Aula per la conversione in legge, con il voto sui requisiti costituzionali di necessità e urgenza. Un percorso parlamentare che di certo non sarà facile. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.